Canto quarto della Divina Commedia, il Purgatorio di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pier. Canto quarto. Quando, per dilettanze ovver per doglie, che alcuna virtù nostra comprenda, l'anima bene ad essa si raccoglie, par ch'a nulla potenzia più intenda, e questo è contra quello error che crede che un'anima sopr'altra in noi s'accenda. E però, quando s'ode cosa o vede che tenga forte a sé l'anima volta, vasse nel tempo e l'uom non se n'avvede. Altra potenzia è quella che l'ascolta ed altra è quella che ha l'anima intera. Questa è quasi legata e quella è sciolta. Di ciò ebb'io esperienzia vera, udendo quello spirito ed ammirando che ben 50 gradi salito era lo sole, ed io non m'era accorto quando venimmo dove quell'anime ad una gridaro a noi: qui è vostro dimando. Maggiore, aperta molte volte in pruna con una forcatella di sue spine, l'uom della villa quando l'uva imbruna, che non era locale onde saline lo duca mio Dio appresso soli, come da noi la schiera si partine. Vassi in San Leo e discendesi in Noli, montasi su Bismantova in Cacume, con esso i pie. Ma qui convien quom voli, dico, con l'ali snelle e con le piume del gran disio, di retro a quel condotto che speranza mi dava e facea lume. Noi salivam per entro il sasso rotto, ed ogni lato ne stringea lo stremo, e piedi e man voleva lo suol di sotto. Quando noi fummo in sull'orlo supremo dell'alta ripa alla scoperta piaggia, maestro mio, diss'io, che via faremo? Ed egli a me: nessun tuo passo caggia, pur suso al monte dietro a me acquista, finché n'appaia alcuna scorta saggia. Lo sommo era alto che vincea la vista, e la costa superba più assai che da mezzo quadrante al centro lista. Io era lasso quando cominciai. O dolce padre, volgiti e rimira, com'io rimango sol se non ristai. Figliuol mio, disse, infin quivi ti tira, additandomi un balzo un poco in sue, che da quel lato il poggio tutto gira. Sì, mi spronaron le parole sue, ch'io mi sforzai, carpando appresso lui, tanto che il cinghio sotto i piedi mi fue. A sederci ponemmo ivi amendui, volti a levante, onde eravam saliti, che suole riguardar giovare altrui. Gli occhi prima drizzai a bassi liti, poscia gli alzai al sole ed ammirava che da sinistra ne eravam feriti. Ben s'avvide il poeta che io restava stupido tutto al carro della luce ove tra noi ed Aquilone entrava. ond'egli a me, se Castore e Polluce fossero in compagnia di quello specchio che su e giù del suo lume conduce, tu vedresti il zodiaco rubecchio ancora allor se più stretto rotare, se non uscisse fuori del cammin vecchio. Come ciò sia, se il vuoi poter pensare, dentro, raccolto, immaginazion, con questo monte in sulla terra stare, sì, camendue hanno un solo orizzon e diversi emisperi, onde la strada che mal non seppe carreggiar Feton, vedrai come a costui convien che vada dall'un, quando a colui dall'altro fianco, se lo intelletto tuo ben chiaro bada. Certo, maestro mio, diss'io, un quanco non vid'io chiaro sì com'io discerno là dove il mio ingegno parea manco, che al mezzo cerchio del moto superno, che si chiama equatore in alcun'arte, e che sempre riman tra il sole e il verno, per la ragion che di quinci si parte verso settentrion, quando gli ebrei vedevan lui verso la calda parte. Ma se te piace, volentier saprei quanto avremo ad andar, che il poggio sale più che salir non possono gli occhi miei. Ed egli a me: questa montagna è tale che sempre al cominciar di sotto è grave, e quanto uom più va su e men fa male. Però quand'ella ti parrà soave, tanto che il suo andar ti fia leggero come a seconda in giuso andar per nave, allor sarai al fin del suo sentiero. Quivi di riposar l'affanno aspetta, più non rispondo, e questo so per vero. E come egli ebbe sua parola detta, una voce di presso sonò, forse che di sedere in prima avrai distretta. Al suon di lei ciascun di noi si torse, e vedemmo mancina un gran petrone, del qual né io né dei prima s'accorse. Là ci traemmo, ed ivi eran persone che si stavano all'ombra dietro al sasso, come uom per negligenza star si pone, e un di lor, che mi sembrava lasso, sedeva ed abbracciava le ginocchia tenendo il viso giù tra esse basso. O dolce signor mio, diss'io, adocchia colui che mostra sé più negligente che se pigrizia fosse sua sirocchia. Allor si volse a noi e pose mente muovendo il viso pur su per la coscia e disse: or va tu su che sei valente. Conobbi allor chi era, e quell'angoscia che m'avvacciava un poco ancor la lena non m'impedì di andare a lui, e poscia che a lui fu giunto alzò la testa appena dicendo: hai ben veduto come il sole dall'omero sinistro il carro mena? Gli atti suoi pigri e le corte parole mosson le labbra mie un poco a riso, poi cominciai: bell'acqua, a me non duole di te omai, ma dimmi, perché assiso qui ritta sei? Attendi tu iscorta, oppur lo modo usato t'ha ripriso? Ed egli: o frate, l'andar su che porta, che non mi lascerebbe ire a martiri l'angel di Dio che siede in sulla porta. Prima convien che tanto il ciel m'aggiri di fuor da essa, quant'io feci in vita, perché indugiai al fin li buon sospiri. Se orazione in prima non m'aita,